Passi sulle ossa della terra, piegandomi un po' con i miei scarponi e lo zaino pesante dai mille pensieri. Qui madre natura sta cambiando i suoi colori ed io stanco non so, chissà se qualcuno sta già in pena per me. Scivolo, scivolo su fiumi di rocce, ma passano, sfiorandomi piano e rapido, rapido mi afferro a qualcosa e poi mi lascio andare. Più in là c'è un sogno, più in là c'è un sorriso, più in là c'è il paradiso. Sopra la vetta ho scalato la mia vita, pulendola un po' con i miei polmoni, ho spinto il vento fino al cuore. Poi madre natura mi ha prestato il suo silenzio e adesso lo so che nessuno starà in pena per me. Ridono, ridono guardandomi andare più in alto del cuore, libero, libero in un mondo incantato che non fa paura. Più in là c'è un sogno e più in là c'è un sorriso, più in là c'è il paradiso. Io non tremo più, più in là il tramonto spazza le ombre dal mio volto e ritrovo all'improvviso la pace e la fiducia dentro me. Ora c'è serenità, ora c'è serenità, serenità, che bella sei stasera sempre. Più in là brace un sorriso, più in là c'è paradiso, più in là sicuro, e adesso io non tremo più, più in là il tramonto spazza le ombre dal mio volto, e ritrovo all'improvviso la pace, la fiducia dentro me. Ora c'è serenità, ora c'è serenità, serenità, serenità, che bello se stasera resti tu con me. Serenità, serenità, che bella sei stasera, sempre la resta.